siamo? Quando siamo? Stiamo scendendo verso Hill Valley, California. Sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015. 2015? Vuoi dire che siamo nel futuro? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Io vi annuncio che Pardo oggi è sulla DeLorean, la macchina del tempo, sì. Quindi lo troviamo adesso, poi lo ritroveremo più tardi. Ci sei, vero? Volevo solo salutarti. 30 secondi che poi dopo... 30 secondi che poi parte. Esatto, una cosa volante sulla Roma di ieri sera. Per me è grande dimostrazione di gioco che non si era mai vista fino adesso. Grandi problemi in difesa, sento parlare male, giustamente, ancora della difesa del Napoli, ci sono dei dubbi su Koulibaly, ma Rudiger visto ieri, Zinchenko visto ieri, Profili visto ieri, fanno pensare, però secondo me un grande allenatore può tirar fuori, in un ambiente sano, può tirar fuori dalla partita di ieri veramente tante cose positive. La qualificazione è complicatissima, perché è chiaro che se ci sarà il biscotto all'ultima fra Bayern e Barcellona sarà un casino e non ti basta fare 8 punti o 9 punti. Però penso veramente che ieri abbiamo visto dei frammenti, dei vagiti di una grande Roma. Adesso sta tutto a Garcia e all'ambiente. Sì. Passo i controlli e ci sentiamo fra poco anche con Cravero. Molto bene, ci sentiamo più tardi. Come dicevo, parte sulla DeLorean oggi, 21 ottobre 1985, uscì questo storico film. E adesso siamo qualche anno dopo e Pardo sta viaggiando nel tempo. Io so che Luca Telese non è già d'accordo con lui. Ciao Luca. Accetto. Ciao. Ciao, buongiorno. Tu hai visto vagiti del... Sei stato convocato e con grandissimo piacere. Con enorme piacere. Tu hai visto ieri sera dei vagiti da grande Roma, come ha detto Pardo? No, ho visto una grande Roma, ma è innegabile. Cioè, si parlava del fatto che ho visto le statistiche da 20 anni... la Roma con le tedesche aveva problemi, arrivano lì, perdono 2-0 con un rigore che c'era, per carità, ma assolutamente involontario, cioè è giusto dare quel rigore, ma uno girato a un braccio teso e becca la palla, stai sotto di un gol, poi stai sotto di 2 gol, li rimonti, vai in vantaggio di 2, prendi una traversa e poi hai quei 3 minuti di follia. Ora trovo incredibile, Pardo l'ha detto con eleganza, ma vedo che c'è qualcun altro proprio raccoglitore di letame che gira sulla rete su Twitter e sembra che la colpa sia di Garcia, cioè è una cosa da pazzi. Se c'è una squadra che prende 2 gol in 5 minuti e Garcia addirittura ha dato una direttiva, bisogna guardare quel bigliettino, cosa avrei pagato per vedere quel bigliettino che Garcia dà a De Rossi approfittando del cambio quando entra Dzeko e dice da Dzeko il bigliettino, dice guarda questo bigliettino, vedo De Rossi, io lo apro, e non sappiamo neanche se potevano metterlo in pratica perché in quel minuto hanno preso il gol. Sì. Che cosa si deve inventare sto povero Rudy Garcia? In campo ci vanno i giocatori. Ho capito Luca, in campo ci vanno i giocatori, però in panchina l'allenatore. Ma se tu gli dai una direttiva e non fanno in tempo neanche a recepirla, cioè questa è la rapidità dei tempi. Tu ti ricordi, io ti ho riconvocato oggi e lo faccio sempre, ripeto con enorme piacere, non per girare il coltello una piaga, perché l'ultima volta ci eravamo sentiti dopo il disastro di Borisov, mi chiamate sempre per le missioni impossibili, ma è giustissimo, cioè questa partita è beffarda. Non è colpa le squadre, intanto allora se ci sono responsabilità, alla Roma manca un difensore, aveva un buon centrale di mestiere che era Yang Ambiqua, che è sicuramente meglio di Rudiger, cioè almeno sapeva palleggiare bene la palla. Aveva un grande pezzo di mercato che ha venduto, che è Romagnoli, ha un infortunato che sta recuperando e spero che il recupero sia luminoso, che è Cassan, ma non è un problema di Garcia se ha una rosa in cui non ha un centrale, non dico di ricambio, ma certamente neanche quello titolare al punto di vista. Però io dopo, guarda, io ti voglio fare dopo. Detto questo, ti voglio fare una domanda difficile, però la squadra ha avuto 20 minuti di blackout di mentalità all'inizio. E quello forse si può dire, ecco, la Roma in Europa sicuramente hanno il terrore di perdere. Reagisce in quel modo straordinario e alla fine, io lo vedevo sull'inzuppamento delle maglie, il fiatone, Florenzi che dice non ce la fa che uno porta la croce, gli ultimi 20 minuti non gli ha retto il fisico, questa è la verità, che è un calo che ha avuto anche con l'Empoli. E allora la anche vecchia questo... guardia di Garcia, però ti dico una cosa, e poi la vecchia guardia di Garcia è quella che sta funzionando meglio. Gervinho era un bidone per tutti quest'estate. Ma come no? Ma non siete riusciti a venderlo in Bahrain? Era il Bahrain o era? Era un errore, perché ha fatto assist con l'Empoli, ha fatto assist ieri. Emirati Arabi, non il Bahrain. Come lo si vede? È stato irresistibile, era con, alzi la mano per i romanisti, chi non ha detto Pjanic, cioè, è finito, ha giocato tutto l'anno in infiltrazioni, quest'anno è esploso un cecchino. Cioè al di là del cecchino, squadra di Rudy Garcia è la squadra che sta funzionando meglio. De Rossi, alzi la mano, che non ha detto De Rossi, ti ricordi quando uscì la foto dei due capitani e qui a Roma sentita si diceva ma sono due giocatori finiti, De Rossi ha fatto una doppietta ieri, aveva le che erano datate. Ma di che stiamo parlando? Ridi, ma qua i matti sono mi dai delle immagini bellissime. Aspetta sono un attimo, fammi mandare il traffico. 800 24 0024 è il numero verde, poi ti faccio bollire un attimo il sangue e poi ti faccio una domanda difficile. Tutti convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Tutti convocati. Ancora il suggerimento, tocco verticale, ancora per Hernandez, posizione regolare, Szczęsny e poi piazzato per il 2-0. 2-0 Bayer, clamorosa dormita difensiva della Roma, della Roma, della Roma, della Roma. Parte Pjanic, palla in mezzo, De Rossi! 2-2, 2-2, prima doppietta europea, capitan futuro, ci pensa lui, ci pensa lui, ci pensa lui. Possibilità per uno contro uno, ancora Gervinho fino in fondo, potrebbe aprire per Iago Falke, 4-2, il contropiede perfetto alla Bay Arena, 4-2 Roma, pazzesco, pazzesco, pazzesco. Palla verticale, Ventel, la mette in mezzo, 4-4, Memedi. 4-4, incredibile, incredibile e clamoroso il pareggio del Bayern nella partita infinita. I tedeschi in un minuto e mezzo trovano il pari, trovano il pari. E mentre Luca Telese si asciuga le lacrime, io gli faccio sentire anche un'altra cosa, che perché tortura, siete dei torturatori. Però no, qua il fuoco amico, capisci? Ora non so dove è Pardo, se ha fatto questo imbarco, ma il fuoco amico è zitto di Bruzzo, non degli juventini. Lo so, e va sulla macchina del tempo, Pardo lo trovo dopo. Romano. Sì, ma però c'è un altro fatto. Allora, ti ricordi dopo Borisov, quando ci fu quell'analisi molto dura di Florenzi, dopo quella più dolce di Garcia? Ebbene, è successo ancora Garcia e poi Nainggolan. Quando rimane 10 minuti o forse meno alla fine, non ti devi abbassare troppo, con la qualità tecnica che hai devi far uscire meglio i palloni e non devi subire due gol in poco tempo. Ma è un risultato utile, anche se ovviamente dal 2-4 al 4-4 siamo tutti delusi, ma riteniamo questa cosa, che eravamo sotto 2-0 e che alla fine è un punto in trasferta. Poi abbiamo fatto altre scelte sbagliate per aumentare lo score, penso che abbiamo perso i punti oggi qua, perché meritavamo completamente di vincere, perché comunque penso che abbiamo giocato anche all'inizio, perché poi l'episodio del rigore comunque ti butta un po' giù la testa, ma poi abbiamo ripreso a giocare, abbiamo recuperato il 2-0, siamo andati sul 2-4 e penso che una partita del genere non la puoi mai far riprendere, soprattutto per come stavamo giocando. Come la mettiamo, Luca Terese? Come la mettiamo? Abbiamo fatto delle scelte sbagliate per aumentare lo score. A me viene in mente subito Dzeko. A me viene in mente, che è brutto dirlo perché amo molto ovviamente la fisicità ruvida in Nainggolan, ma ieri Nainggolan è uno di quelli che ha sbagliato più palle La spiegazione che do è che il cartellino lo ha inibito. C'è stato pure un arbitraggio un po' scandaloso, no? Rigori fantasma, cose, punizioni, forse persino quella su lui. Però Nainggolan è stato bloccato con una ammonizione che poteva diventare espulsione. Garcia non ha messo Dzeko perché voleva fare il 12-0, ha messo Dzeko perché doveva provarlo dopo l'infortunio, doveva farlo rientrare, doveva far respirare Florenzi che era morto di stanchezza. Cioè la verità è che è un problema atletico negli ultimi minuti, che erano morti. La filosofia di Garcia è palleggiare. Ma chi deve dargli la condizione, scusa Luca? Il preparatore atletico, immagino, ma comunque una partita di specchio. Vogliamo dire che chiunque di noi, se dobbiamo rimentare un 2-0 in Europa in un clima ostile, fatichiamo. Hanno consumato tutto, evidentemente hanno dato fondo a molte energie, ma la squadra che parte da 2-0 e va a 4-2 è una delle Rome più belle. Mi dispiace, voglio dire, controcorrente, bisogna dire che genio Garcia che ha messo in campo una formazione così luminosa da 2-0 a 4-2. Ma dove l'abbiamo vista in Europa una performance come questa? Poi sono crollati, perché erano crollati, erano zuppi. Allora mi dirai, forse è colpa un po' anche di Garcia, non lo so, ma non l'ha scelto lui il preparatore quest'anno. Squadra fatica negli ultimi 20 minuti. Continua ad essere una squadra che si accende, te l'ho detto forse l'altra volta, come la lucina dell'albero di Natale, è intermittente e ha questo vizio di fondo dell'essere intermittente, non ti dà certezze e garanzie, come ad esempio il Napoli. La cosa che volevo dirti è questa: l'anno scorso avrebbero preso Koulibaly, Albiol, Maggio, li avrebbero caricati tutti su un aereo con destinazione ignota. Quest'anno non prendono più un gol neanche a morire, e sono gli stessi, non è che sono cambiati, non sono i fratelli bravi. Però sono quelli che dovevano essere i titolari, mentre invece la Roma, lo sappiamo, e tra l'altro è un problema che Garcia sta provando a recuperare con una grandissima delicatezza umana, e c'è un problema importante su Castan che stanno recuperando. Non puoi dire, e dici, qual è il rimpiazzo di Castan? Non c'è. Cioè Rudiger è meglio. Ma tu pensi che con Romagnoli Rudiger sarebbe cambiata la faccenda? Io penso che forse anche con Yangabiqua. Cioè a un certo punto c'erano tutte quelle palle e mancava quella piccola impostazione da dietro. Quando dice Garcia che si sono abbassati, è vero, a un certo punto le palle indietro per impostare, non so se avete notato, sia nei primi 20 minuti sia negli ultimi, andava a prenderle Pjanic. Sì. Cioè non c'era quell'impostazione dalla difesa che, devo dire, il buon Yangabiqua, tanto disprezzato, garantiva, che probabilmente Romagnoli avrebbe garantito, ma lì l'affare era talmente ghiotto che hanno fatto bene a venderlo, ma che un giocatore con più esperienza di palleggio o più confidenza con la squadra ti può consentire. Però dico, si era detto che Garcia aveva sbagliato sugli uomini, invece ha vinto persino la scommessa di Gervinho. È una cosa incredibile quella scommessa vinta. Seminava il panico ogni volta che pigliava la palla. È un altro giocatore, non è quello dell'anno scorso. Ha vinto la scommessa su Pjanic. Non so se avete visto quel momento. Poi ho letto stamattina un stupore, qualcuno dice che ha dedicato alla nonna bosniaca. Ma si vede Pjanic che segna il gol, si gira e fa tu a Rudy sulla panchina. Guarda che è una cosa grossa che Pjanic, comunque che Pjanic fosse un eccellente giocatore, questo si sapeva, che avesse problemi fisici. Ma tu sai come siamo fatti, dai. Sì, ha giocato una stagione con le infiltrazioni, ma che fosse un super giocatore Pjanic non aveva messo in discussione nessuno, po' meno. Adesso lo paragonano a Pirlo. Anche a Rivera ho letto oggi. Questa punizione è di una bellezza, perché poi mi fa ridere. Ieri ho sentito qualcuno dice anche il portiere ha sbagliato, ma che vuoi sbagliare? Ti salta la barriera, ti va sull'angolo opposto, dove balla vai a prendere? Balla a prendere se sei capace. Quindi morale, perché vuol dire che uno dei gol, vogliamo almeno dire che uno dei due gol è anche frutto di una protesta dall'altra parte, che quella specie di mostro là, visto, un malgioglio del calcio si tedesco. Sono viste come si chiama il malgioglio del calcio tedesco che si è inventato quel gol, porca miseria, non voglio neanche pronunciare il nome. Campbell? No, quello ossigenato, maledetto, lui non dovevi dirlo il nome. Luca, grazie, ha fatto un gol da mano. Ci sentiamo presto, è bellissimo, grazie Luca Terese. 800 24 00 24, facciamo appena in tempo a parlare con Stefano della provincia di Imperia, che lì da un sacco di tempo. Stefano Di Capo. Pronto, buongiorno. Senti, io volevo fare una domanda molto veloce, volevo chiedere, ma visto giocare anche la Roma ieri sera, Volevo sapere, secondo lei, secondo il suo parere, quando è che una squadra gioca bene? Mi intendo. Cioè, noi abbiamo sempre nella mente, ad esempio, il primo Sacchi o anche il Foggia di Zema, che però finivano le partite come quelle di ieri sera, 4-4, 5-4, 6-3. No, beh, il Milan di Sacchi no. Il Milan di Sacchi no, sto parlando del Foggia, ad esempio, anche. Ma però, Foggia, dire, poi Zema, ad altre riprove. Difende bene o quando guardi fa gol a palate e ne piglia a palate? Allora, posso dare una risposta in una parola, a mio parere, soltanto a mio parere, quando ha quella cosa che si chiama equilibrio, quella cosa che in questo momento il Napoli, che gioca in maniera meravigliosa, ha, la Fiorentina gioca in maniera meravigliosa, ha. Quella parola si chiama equilibrio. Una squadra che non ha equilibrio può divertire, se uno non è tifoso, può far incazzare come una bestia lucatelese. Però siamo sempre lì. Una partita che finisce 4-4 in quella maniera, secondo me, non è una partita positiva per la Roma, considerata anche l'importanza di questa gara. Lorenzo, Milano. Sì, buonasera, sono un tifoso della Roma. Sì. Una domanda e una riflessione. La domanda è, proprio venendo dietro a quello che diceva lei, una squadra che da 4-2 in meno di 10 minuti prende due gol, innanzitutto se può essere una candidata seria allo scudetto. La riflessione invece riguarda la difesa, perché si è detto che questo era il vero problema della Roma e sono d'accordo, e secondo il mio modo di vedere è un problema di organizzazione e di mercato. Il terzino destro, Maicon, è un ex giocatore da tempo. No, nel senso, non può giocare, infatti non gioca e non viene preso, un ex giocatore da tempo. Sì. No, dicevo, Maicon è un ex giocatore da tempo, ma certamente è di mercato, però non pensiate che sia sufficiente prendere un paio di giocatori, un terzino destro e un centrale un po' più accessibile, un po' più praticabile di quelli che la Roma ha adesso, stante il recupero di Castan e tolto Manolasca, è molto bravo. Non pensiate che sia sufficiente prendere due giocatori così per sistemare la squadra, perché questa squadra non ha equilibrio. Sentiamo dopo anche con Pardo. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presento. Tutti convocati. Dunque torniamo da Pierluigi Pardo, che ha preso a bordo sulla DeLorean, giusto? Sulla navetta, come va? La navetta, molto bene come prima, abbiamo già sviscerato un po' gli argomenti Roma, ma adesso ci torniamo. Ritorno al futuro, Back to the Future, 30 anni fa usciva questo film che è rimasto nel cuore di tutti noi e ci portava, guarda un po', il 21 ottobre del 2015. Ti ricordi cosa è successo il 21 ottobre del 1985 quando è uscito questo film? No. Te lo dico io. Te lo ricordo io. Allora, c'era tutta Italia che stava celebrando con altari e processioni uno storico gol di Diego Maradona in un Napoli-Verona 5-0. Lo ricorda Maradona questo gol? Maradona con questo gol beffardo lascia di stucco il portiere, un gol che vi proponiamo al rallentatore con la descrizione autografa dell'autore. Sì, ho visto che Giuliani stava fuori dalla porta, mi ha rimbalzato la palla, ho visto il calciato con fortuna che ha entrato in porta. Un gol bello perché era di lontano. Beh, mi sembra siano stati usati toni di aperto minimalismo. Questo gol beffardo sì, è stato un capolavoro della storia del calcio. Era ordinaria. Vabbè. Amministrazione, capito? Un gol bello perché era lontano. Beh, roba da niente. Esatto. Beffardo, un gol beffardo. Ritorno al futuro. Ieri è stata la notte di Capitan Futuro, anche se ovviamente sono a metà per le cose che dicevamo anche prima. Però non so se anche questa analogia che mi è venuta in mente con sprazzo di lucidità imprevisto. Sì, beh, Capitan Futuro alla sua età, il futuro dovrebbe essere già adesso per Daniele De Rossi. Ci ha messo un po' a diventare capitano, non più futuro. Sì, no, ci ha messo un po', però insomma dai, io credo che che ieri abbia preso per mano la Roma, come diciamo anche prima, nel momento più difficile, e abbia fatto anche cose non sue, non tradizionali, non normali, perché da lui non è che ci si aspettano le doppiette, si aspetta un contributo di un certo tipo. Non è bastato per tutti i discorsi che diciamo prima, se non è la strada molto in salita. Io continuo a pensare che un ambiente normale, con un grande allenatore, una partita come questa possa essere l'inizio di un percorso, perché la Roma ieri ha fatto delle cose che secondo me non si erano viste fin qui in positivo dall'inizio della stagione. È chiaro che i limiti strutturali di cui si parlava, la difesa che non è all'altezza, incidono. Ma vuoi parlare con Cravero, che è qui con me? Sì, volevo chiederti di passarmi capitan passato, presente, futuro, per sempre del Torino. Capitan passato di verdura, poi te lo passo. Grazie. Cravero, c'è Radio 24, sono bravi ragazzi. Poi ti mandano del Flint, ti mandano degli agnolotti al Flint. Provederemo, parliamo al mattino. Scusatelo, già così al mattino. No, lo so, lo conosco bene. Poi parliamo con Davide Paolini e provvediamo a recapitare il pacco a Capitan Cravero. No, Roby, dimmi una cosa. Sì. Ne parlavamo prima con Telese, eccessivamente o forse giustamente critico. Da un punto di vista strettamente tecnico, la difesa della Roma quanto vale? Così com'è? Non molto. Non molto, perché penso che ci sia un giocatore che sia completamente all'altezza, che è Manolas, un altro giocatore che è Digne, che fa il suo compitino. Ma ieri sera, adesso non voglio generalizzare, ma ieri sera Torosidi e Rudiger sono stati veramente al di sotto delle aspettative, con errori clamorosi. Il raddoppio di Hernanes è con Rudiger che non fa una scelta per un difensore sbagliata, cioè lui deve fare una scelta, certo, che era quella o di salire, cercare di mettere fuori il gioco o seguirlo. Poi si può prendere sempre gol se poi l'avversario è più bravo e se si chiama Cicciarito, però una scelta la devi fare. Se un difensore invece non ha in quel momento la lucidità per fare appunto questa scelta, vuol dire che non è all'altezza della situazione. Torosidis invece fa un errore clamoroso, che sin dal settore giovanile ti dicono non devi mai perdere di vista il pallone, invece lui a un certo momento, per seguire la profondità di Wendel, dà le spalle alla palla. Se guardiamo, la palla gli passa se non in mezzo alle gambe a un centimetro, però lui, non avendo la presenza di dove sia il pallone passa e Wendel la mette dietro di prima, e poi Digne perde l'uomo. Quindi veramente una difesa che non dà, che ti dà poco, ma soprattutto anche moralmente, sì, ti ammazza, cioè nel senso, quello che crea il centrocampo e l'attacco poi viene distrutto da una fase difensiva. Sì, improponibile, però a me suona tutto abbastanza strano. Poi è tutto vero, sacrosanto, però tu prendi anche la difesa del Napoli, che adesso è imperforabile, non prende più gol. Erano gli stessi giocatori più o meno spernacchiati un anno fa. Adesso non è che hanno preso Beckenbauer, Kroll e Van Aneghem, o chi vuoi tu, o Cravero, è più o meno la stessa squadra, però adesso sembrano davvero altri giocatori. No, in questo sono d'accordo, forse perché l'allenatore nuovo a Napoli gli ha dato innanzitutto gli ha dato più protezione a metà campo, perché tutti ricordi Benitez giocava con due centrocampisti, adesso giocando con tre forse hai più protezione. Gli ha dato più organizzazione, ma soprattutto c'è una cosa che secondo me diventa determinante: Sarri e i suoi difensori chiede solo delle cose semplici, sì, mentre Benitez gli chiedeva di impostare, di allargarsi, di iniziare l'azione. Invece Sarri gli dà due cose che loro sanno fare, cioè accorciare molto, non pensare alla palla dietro le spalle, perché se è la difesa alta magari c'è la possibilità che vada nel fuorigioco. Cioè, ha semplificato il gioco, gli ha tolto un problema dalla testa di Albiol e di Koulibaly. Certo, e quindi certo, questo poi alla fine ha giovamento. Poi ci metto sempre il fattore psicologico, certo, perché nel calcio è determinante. In questo momento sono in fiducia, hanno morale e possono affrontare chiunque. Sì, ma non è per fare una difesa d'ufficio valida fino a un certo punto della tua categoria, però io insomma sono anni che sento spernacchiare Ranocchia dai tifosi dell'Inter. Prima Bonucci era un brocco, adesso è diventato il perno della Juventus e della Nazionale. Barzagli è uno che ha girato tutto il mondo prima di diventare un difensore insostituibile. Cioè, quello che mi viene da pensare è che molto spesso la vita di un difensore si basa su quello che accade davanti a lui e su quello che gli allenatori propongono davanti a lui. Sì. Questo per difendere nessuno, per difendere nessuno. No, hai ragione, ma la disamina prima che ho fatto sul difensore della Roma è diciamo giornaliera, cioè della prestazione. Cioè io non vado a giudicare della carriera o se diventeranno più forti. Io giudico la prestazione di ieri, giudico gli errori che hanno fatto ieri, ecco, è circoscritta a Bayer Leverkusen Roma. Poi magari domenica Rudiger sarà migliore in campo e segnaleremo che è migliore in campo. sì, sicuro. Un'ultima cosa, Roberto, una squadra così non mi sembra che abbia molte chance di passare il turno. Sono più fiducioso io. Sì. Sono più fiducioso perché guardo sempre il fattore positivo. Per me 60 minuti di altissimo livello la Roma. Giocando un calcio veloce, con personalità, reagendo a un 2-0 e non era facile, andando su 4-2 con giocate importanti, in velocità. E poi i primi 18 minuti e gli altri 2 minuti da dimenticare, però la Roma batte il Leverkusen in casa, poi batte Borisov e a quel punto obbliga il Leverkusen a battere obbligatoriamente il Barcellona all'ultima domenica, all'ultima giornata. Barcellona è già qualificato, ma non vedo come questo Leverkusen possa battere il Barcellona se il Barcellona ha voglia di giocare. Esatto. C'è il Barcellona ancora qualcosa da dire. Esatto. Grazie Roberto, mi ripassi Pardo che lo saluto? Certo. Grazie ciao. Roberto Cravero. Fammi sentire cosa c'era prima in classifica nel 1985. Ecco. Sentila Pierluigi. Prima in classifica non nel calcio, prima in classifica la Juve, 2014. Prima nella classifica, nella Hit Parade, bravissimo. Ascolta, io per essere Io per essere blasfemo fino in fondo passo da Into the Groove di Madonna a farti sentire invece cosa ha detto Massimiliano Allegri, anzi il signor Allegri Massimiliano. Signor Allegri. Torniamo a sentirlo prima della partita con il Borussia Mönchengladbach. Domani abbiamo una possibilità importante per mettere una grossa percentuale sul passaggio del turno, che sia da primo o da secondo posto, e quindi domani dobbiamo sapere che, ripeto, interpretare la partita come se fosse una partita secca, avendo grande rispetto del Borussia e non andando sull'onda di entusiasmo e della scia delle due partite precedenti in Champions, perché in Champions bisogna fare sempre il massimo per ottenere il massimo. Dai Pierluigi, già che sei sulla DeLorean, prima di salutarti fammi un pronostico visto che puoi andare al futuro. No, io penso che il Gladbach sta bene, sta improvvisamente molto bene dopo il cambio di allenatore, certamente adesso, esatto, non deve essere sottovalutata. La Juve non è nella condizione in questa via di stagione di poter sottovalutare nessuno, perché non ha le certezze che c'erano un anno fa, però il cammino europeo ci ha detto che questa squadra, quando gioca per la partita, per l'impresa, per la prestazione, riesce a far molto bene ed è affidabile. Io credo che la Juve abbia una bella possibilità, però non mi sono fatto pronostici, e poi veramente per verificare lì nelle scaramanzie, insomma, è importante che la Juve faccia 4 punti tra stasera e la Germania, e fatto tutto, credo che poi è fatta. Sarà tutto a posto. E poi ribadisco ancora, scacciamo i cattivi pensieri, perché se la Roma comincia a pensare, come diceva Roberto, che il Bayern per forza vincerà perché il Barcellona gliela dà l'ultima giornata, e prima ancora deve vincere a Borisov, allora a quel punto tanto vale non giocare, non presentarsi vita, neanche. No, hai ragione, su questo hai perfettamente ragione, Piero. Quante ne abbiamo viste, per fortuna. La partita di ieri dimostra che la Roma è più forte del Bayern Leverkusen, ha più qualità, ha complessivamente più qualità. Sì. Però è chiaro che se non vince nessuna partita, il problema è che più forte, ha più qualità, ma è finita 4-4 in quella maniera. Il massimo è pareggiare col Barcellona, Pier, mi raccomando, buon viaggio, ci sentiamo domani. Aldo, ok. Ciao, salutami Cravero, 800240024, ci fermiamo per il traffico, giusto appunto, senza The L'Oreal, e torniamo subito dopo. Sorriso amaro per lui, spot per noi, torniamo subito. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Tutti convocati. Nel frattempo leggendo interessanti indiscrezioni di mercato. Cavani che manda messaggio al Napoli, vincete lo scudetto, poi chissà che possa tornare. A Cavani dà segni di insofferenza già da un pezzo. Gli inglesi che dicono state certi che Cuadrado a gennaio sarà tutto della Juventus, e questo sia, credo sia una splendida notizia, no, per i tifosi della Juve. E poi torna a rimbalzare la voce del contatto tra il Bayern Monaco e Ancelotti per il dopo Guardiola. Questo mi sembra uno scenario assolutamente credibile. Ascoltatori, con gran piacere, 800 24 00 24, numero verde. Saro Siracusa, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo parlare un attimo della Roma, sì. Parlare alla partita di ieri, perché c'è un aspetto che secondo me va sottolineato, cioè se Hernandez, Cicerito Hernandez, all'ultimo minuto fa gol, di che partita parleremmo oggi? Ma è possibile che un allenatore così importante di una squadra che potrebbe e dovrebbe vincere il campionato quest'anno faccia l'errore di levare un centrocampista e mettere una punta a due minuti dalla fine? Sì, quella l'ho capita poco perfino io, anche perché prima non ho fatto in tempo a rispondere a Luca Telese. Allora, rientra Dzeko, che dovrebbe essere il nuovo ago della bilancia della Roma. Vabbè, si è fatto male, pace, adesso sta bene, è rientrato. Però sì, non lo fai entrare per provarlo nel finale di una partita così difficile, in cui c'è anche un elevato rischio di farsi male, perché è una partita molto tirata, molto tesa, in cui quegli altri stanno attaccando come forsennati, in cui tutto sommato un giocatore come Dzeko, nonostante l'esperienza internazionale, poi mi dici è bravo a tenere sulla palla, a tenere sulla squadra, tutte queste cose qui, va bene, possiamo fare questo conto su tutto. Io sto parlando di condizioni soltanto fisiche, cioè io non avrei fatto entrare un giocatore reduce da un infortunio per pochi minuti in una partita di questo tipo. Poi il resto, Saro, lo decido ogni episodio, se andava dentro il gol di Hernandez, se non si il Bayer Leverkusen non segnava quei due gol in rapida successione. Stiamo parlando ovviamente di partite tutte diverse, ma il calcio è questo fin qui. Io faccio una considerazione puramente tecnica e fisica, magari mi sbaglierò io, ne parlavo anche ieri con un nostro ospite che non mi ricordo chi fosse, si diceva ma meglio un giocatore di questo tipo, se vuoi farlo giocare subito a caldo, oppure tenerlo in panchina e magari utilizzarlo a giochi in corso. Ci eravamo trovati tutti d'accordo nel dire che è rischioso far rientrare in una serata così un giocatore reduce da un infortunio. Questo è il mio pensiero. Domenico, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Innanzitutto velocemente i miei complimenti a tutti i convocati, al conduttore, al grazie, grande Pardo, sì, che seguo su Periscope, panza all'aria, dopo su una barca o dopo cena vagamente, sì, alcolico, siete, sì, fantastici. Lui sì, è una sua fissazione questa, una cosa che, ma mi piace molto, molto è sociale, molto social. E anche uno dei per la cronaca voglio dire che il discorso su Dzeko, per chiudere il discorso, non c'è nulla in sospeso, l'ho fatto ieri con Di Gennaro, quindi qualcuno che ci capisce assai che più del sottoscritto, sì. Ma insomma anche tu non scherzi comunque. Grazie. Senti, volevo dirvi una cosa rapida al volo. Oggi c'è Juve Borussia Mönchengladbach, che per uno che ha 45 va per i 46 come me è una partita importante, perché mi ricorda che la mia prima partita allo stadio a vedere la Juventus fu nel 1974, una partita di Coppa Campione con la stessa avversaria, Juve Borussia Mönchengladbach. Mi portò mio padre, allora avevo 4 anni. Mi pare di ricordare che la stella di quel Borussia era un danese, René Simonsen, potrei sbagliarmi. Ma non mi credo. Sembra anche a me, anche se ero piccolo, però mi ricordo. Potrei sbagliarmi, ma non credo. Manacco negli anni successivi, uh-huh, mi sembrava un danese. Danese brevilineo con lungo cappello biondo. Come quella partita, perché quella partita finì 2-2, e vincevamo 2-0 alla fine del primo tempo, ricordando un po' la Roma, sì, ieri. e poi fummo eliminati. E se non sbaglio, quella partita era l'esordio in Coppa Campione di Marco Tardelli. Qui mi chiedi troppo. Questo non lo so, lo chiedo agli ascoltatori. 800240024 o messaggi 349-238-6666. Può essere come tempistica ci sta. Certamente in quegli anni non eravamo una superpotenza europea. Poi molta acqua è passata sotto i ponti. Certamente il Borussia, dopo un avvio di stagione pessimo, ha cambiato allenatore. Come d'incanto rifiorito, spesso accade, guardate un po', ed è un avversario serio, anche se, ripeto, la Juventus è affidabile, in Europa è affidabile, e poi, se vogliamo tornare a parlare di equilibri, che dire, mi pare che abbia cambiato qualcosino in quelli della signora. È rientrato anche Marchisio, il puzzle si va ricomponendo, dunque... Anche se prima o poi Morata non potrà segnare tutte le partite, anche se lo augura di voce la Juve, non potrà segnare tutte le europartite, rimane una squadra totalmente affidabile. Allora, glielo dico io, perché Giorgio De Luca e i ragazzi della redazione sono bravissimi, Giovanni Melchiori sono bravissimi a trovare in tempo reale statistiche. La stagione Juventus e Borussia Mönchengladbach si sono sfidate due volte nella loro storia, entrambe nella stagione 75-76 al secondo turno di Coppa dei Campioni. All'andata in Germania i tedeschi vinsero 2-0, gol di Hankes e Simonsen, quindi non mi sbagliavo, Simonsen che ha segnato anche la gara di ritorno. A Torino la Juventus non riuscì a ribaltare il risultato pareggiando 2-2, gol di Gori e Bettega, Danner e Simonsen per i tedeschi. Luigi, buongiorno. Buongiorno, anche se qui, come confermo, cioè, sta venendo giù il mondo, diciamo, come acqua. Ah sì? E allora, io innanzitutto sono juventino, quindi godo come un pazzo, faccio campanilismo che la Roma ha pareggiato 4-4, è fantastico, cioè poi a 10 minuti dalla fine è fantastico. Però noi di cosa parliamo? Parliamo di una difesa che c'ha Torositis e Manolas. Noi stiamo facendo diventare un giocatore forte. Manolas è un buon giocatore. Comunque, è un buon giocatore. Io ti faccio quattro nomi. Costa Curta, Maldini, Baresi, Tassotti, Turam o Cannavaro, o se no che ti posso dire, Gentile, Collovati, Scirea, Gabrini, ma davanti a questo, come mi insegni tu, come mi insegna Pardo, c'erano nel Milan c'erano Rijkaard, Van Basten, Rijkaard, Gullit, Colombo e Ancelotti, Emerson. Le formazioni grosso modo le conosciamo e rimane tutto nello stesso ambito. È chiaro che la Roma non ha Baresi, Costa Curta, Maldini, Scirea, Cabrini, Manolas che è un buon giocatore, le manca qualcosa, ma non ha neanche dei giocatori secondo me da questo tipo di rendimento. È vero, era Allan Simonsen, Giorgio De Luca, René Simonsen era una modella, ma su questo è un errore che rivendico, va bene? Ci sentiamo subito dopo il GR. Il futuro? Ma che dici? Come possiamo essere nel futuro? Jennifer, non so come spiegartelo, ma sei in una macchina del tempo. E questo è l'anno 2015. 21 ottobre 2015. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Convocati. No. Sì, vai, sì. Vai, Comunque c'è, grazie a Mauro Bergamasco, una partita incredibile la sua, da grande combattente. Allora, potessi usare la macchina del tempo oggi, lo so, si chiama DeLorean con la N finale e non con la L, perdonatemi tutti questi macroscopici errori, però Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buongiorno. Ciò che conta è la sostanza, oggi siamo qui a parlare con grande piacere, un grande onore, con un'icona dello sport. Rugby va bene, ma un'icona dello sport contemporanea, si chiama Mauro Bergamasco. Sì, è un'icona dello sport contemporaneo perché è un giocatore che gioca 17 anni di seguito con la maglia azzurra in uno sport non precisamente leggero, è difficile trovarlo. Sì. Lui ha esordito nel 98, ha finito adesso nel 2015. Vogliamo anche dire che in 8 edizioni della Coppa del Mondo sono passati attraverso questa competizione alcune migliaia di giocatori, sì. Ma ce ne sono due che hanno fatto 5 Coppe del Mondo, uno è Brian Lima e l'altro è Mauro Bergamasco che esordì. Ed è per questo che è un'icona e lo metterei subito sulla macchina del tempo, la DeLorean, ripeto con la N. Ciao Mauro. Ciao, buongiorno a tutti. Ci saliresti sulla macchina del tempo? Certo ce la farei, dai. Certo ce lo farei volentieri. Però dai, mi sono talmente divertito in questi anni, è meglio tenerli così. Sì, meglio tenerli lì. Ma e poi cosa ne facciamo? Di questi anni, di queste esperienze e di questa di questo carisma. Lo racconterò ai posteri. A me non basta, non so, Bagnasco. Ma guarda, io mi ricordo Mauro all'esordio. Nel 98, a 19 anni, era stato appena convocato per un raduno della nazionale a Piacenza. Io sono entrato nell'albergo e non sapevo chi era sto ragazzo qui. C'era un ragazzo biondo che non riusciva a stare seduto sulla poltrona, continuava a girare, mi ha visto, mi ha detto: chi sta cercando? Io credevo che fosse il più giovane dei fratelli Dallan che stavano uscendo in quel momento. E da quel momento ho sempre avuto l'impressione di questa forza, di questa vivacità, dal suo primo mondiale, quando Phil Vickery in maniera un po' criminale lo fece fuori subito con una botta nel costato. Ma insomma, pensare che lui ha esordito quasi prima in nazionale che nel suo club, un ruolo nel quale nel suo club non aveva mai giocato, tutte cose tutte cose da leggenda, sono cose che scrivono così la storia di un giocatore, come ognuno di noi ovviamente ha nel suo bagaglio. Io ho avuto questa fortuna dove Cost nel lontano 98 ha creduto in me. Io effettivamente non ero ancora in pianta stabile nella prima squadra del mio club, del Petrarca, e giocavo al numero 10 nel 21, e nel frattempo poi Cost invece ha creduto di farmi giocare in terza linea e a quanto pare insomma ci ha azzeccato. Senti Mauro, ma poteva finire meglio l'avventura? Meglio, lo so, sai dove voglio arrivare? Sì, so bene dove voglio arrivare. Guarda, io non ho fatto nessuna polemica perché non credo che fosse stato giusto farla, e ancora proseguo nel non farla. Ovviamente, come ho detto chiaramente, non sono contento delle scelte, condivido ovviamente che parla. Stavamo entrando in un discorso molto interessante. No, è chiaro che tutta l'Italia, non solo del rugby, voleva vederlo in campo con la Romania. Ma guarda Carlo, io penso intanto se Mauro dice sono deluso di non essere stato scelto, ha perfettamente ragione, perché sì, qualunque giocatore va ai mondiali e vorrebbe essere stato scelto. Io però ti faccio un altro ragionamento, dico che si dice che nel rugby per rispettare l'avversario bisogna segnargli tutti i punti che gli si possono segnare. Se una partita finisce 80 a 5, quella squadra sa che 5 punti li ha meritati. Tornato, si stava rispondendo, poi te lo lascio per un'ultima domanda. Bene. Giacomo, dimmi Mauro, stavi dicendo? Sì, ciao, vi siete un po' lontani. La dicevo che ovviamente non sono contento delle scelte, la certa tecnica e non la condivido perché c'erano altre possibilità, però ovviamente questo fa parte del gioco. C'è un tecnico che ha proposto la gestione e questa è la sua gestione. Poi ovviamente tutto quanto può essere discusso o meno, però ovviamente come tutte le cose potevano finire meglio. Però credo che valutando quello che è stata la realtà, credo che la cosa più importante per me, per quanto mi riguarda, è stata il gioco inaspettato da parte dei miei compagni di squadra a fine partita, che mi hanno poi tirato dentro il campo, sì, sì, tra virgolette festeggiandomi. Penso che per un giocatore, dopo aver passato 17 anni e più della propria vita all'interno di un campo, condividendo giochi e dolori con i compagni di squadra, il riconoscimento più grande che viene da loro sia una cosa importante. Sì, è stato quello. Sì, io penso, Mauro, comunque, che la convocazione da parte di Brunel significhi da sola tutto il rispetto e tutta la stima che aveva nei tuoi confronti. Penso anche che abbia sofferto più lui di altri a lasciarti fuori, e che sarebbe stato un po' più furbetto in un certo senso comunque a metterti in squadra. Detto questo, è chiaro che Brunelle, lo sappiamo perché gli abbiamo parlato, ma in tempi non sospetti, uno o due anni fa diceva: guardate che Mauro Bergamasco è tuttora il giocatore fisicamente più in forma del gruppo, e quindi lo ha portato perché Mauro meritava, e quindi merita tutti questi riconoscimenti. A questo punto però gli chiediamo anche un pronostico: ci sono due semifinali adesso, che levati, Sudafrica, Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Europa fuori, ma chi andrà avanti fino all'ultimo, Mauro? Guarda, io un po' per onor di... così, sono un latino, e quindi io spero, visto il progresso fatto fino ad oggi, spero che l'Argentina possa arrivare in finale. E dall'altra parte, Nuova Zelanda e Australia, cioè Nuova Zelanda non ha mostrato assolutamente nulla nella prima fase del campionato del mondo, giocando un rugby estremamente semplice, molto importante dal punto di vista fisico e di presenza di uomini, ed è arrivato fino in semifinale, mostrando poi la realtà, aumentando proprio il proprio gioco, la propria qualità individuale e anche la velocità di gioco. Quindi penso che... Beh, abbiamo capito. Argentina-Nuova Zelanda. Argentina-Nuova Zelanda, se posso aggiungere una cosa, in uno sport così una bella sorpresa fino in fondo ci starebbe. Una vittoria, certo, dell'Argentina ci farebbe parlare di rugby per molti giorni, secondo, certo, me. Certo. Mauro, sei ancora lì? Rispondimi secco. L'altro giorno parlavo con Dominguez, credo che tu lo conosca di vista. Qualche volta l'hai visto da questi microfoni. Gli ho chiesto: Diego, ma vuoi fare il CT? E lui ha risposto: questo è l'obiettivo di un percorso che io sto facendo. Se faccio la stessa domanda a te, io il percorso non lo sto ancora facendo. Sì. Allora posso rispondere per Diego dicendo che effettivamente sta facendo un percorso molto importante, e perché no, tra qualche anno, quando lui avrà concluso questo suo progetto, perché no? Penso che sia un giocatore che al di là, oltre alla sua grande qualità da giocatore, da atleta e anche dal punto di vista mentale ovviamente, ha saputo guidare l'Italia per tantissimi anni, portandola assieme al gruppo di uomini con cui giocava all'Italia Sei Nazioni. Credo che oltre all'esperienza da giocatore, in questi anni abbia maturato anche un'esperienza così, quantomeno di gestione, e lui ha una passione di fondo per l'Italia, che ha dimostrato sia in campo che sta dimostrando anche fuori. Quindi io non escludo questa possibilità, anzi glielo auguro. Il percorso è molto lungo e lui conosce bene quali sono gli obiettivi e le tappe intermedie. A te interessa? Per quanto mi riguarda non è un mio obiettivo esserci in nazionale in questo momento. Ci sono diverse strade nel rugby che mi piacerebbe intraprendere, però credo che una cosa del genere sia abbastanza, se non sia così vicina, ecco. Grazie Mauro, grazie di tutto. Grazie a voi, di buona tutto giornata, davvero. Ciao a tutti. Ciao Mauro Bergamasco. Beh, sai quando ne troviamo un altro? Bisogna trovare lui e anche tanti altri. Sì, magari anche risolvere un po' di situazioni. Sappiamo che Brunel è stato confermato fino al prossimo Sei Nazioni, però è una conferma a termine, se arriva a scadenza. Il presidente Galazzi ha detto che gli ha chiesto di fare un Sei Nazioni al massimo, nel senso di utilizzare giocatori anche che non possono arrivare fino al prossimo mondiale. Il ciclo quindi lo comincerà il prossimo CT, dalla tournée di giugno dovrebbe essere Conor O'Shea, irlandese di esperienza, di talento, poi bisogna lasciarlo lavorare. Sì, non sarà un Sei Nazioni allegrissimo questo, Giacomo. No. Non sarà, quello che ci attende non sarà un Sei Nazioni, sarà una sorta di addio a una generazione di giocatori, oltre che a un commissario. Non sarà un Sei Nazioni allegro per nessuna nazione, visto che sono uscite tutte. Normale che sia così anche l'anno dopo i mondiali. Giacomo, grazie. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco, vi faccio sentire un altro Giacomo che si chiama Bonaventura di cognome e che questa sera c'è la Coppa anche a San Siro, il mercoledì di Coppa anche a San Siro, un tristissimo trofeo Berlusconi nel derby tra il Milan e l'Inter, domani contiamo gli spettatori, ma Bonaventura è particolarmente ottimista. Ma penso che possa arrivare fra le prime 5 perché abbiamo dei giocatori molto validi, un allenatore bravo, un gruppo che sta crescendo, che crede in quello che fa e che ha tanta voglia di recuperare un po' di terreno perso in queste prime giornate, quindi lo spirito c'è, la qualità anche, penso che si possa arrivare fra le prime 5 entro Natale. Non tra le prime 5, ma tra le prime 5 entro Natale. A me sembra un eccesso di ottimismo, ma se lo dice Bonaventura, che peraltro anche in questa stagione nel mezzo disastro generale, o anche non mezzo, nella pochezza del Milan di quest'anno, è comunque uno dei più brillanti. Poi magari domani ne parliamo, io questa storia dei portieri non mica l'ho capita, dovrebbe giocare il bambino Donnarumma, ci sono molte perplessità intorno a Diego Lopez, che a me sembra comunque un eccellente portiere e non mi sembra quello il problema principale del Milan, ma è un momento un po' così per i portieri. Anche ieri abbiamo visto una papera che dal più forte del mondo, cioè da Neuer, non ti aspetti, che ha aperto la strada 2-0 dell'Arsenal. Gilberto Novara, buongiorno. Sì, buongiorno. Stavo chiamando per intervenire un attimo sulla Roma, giusto per capire, sì, un'osservazione. Sì. Garcia ha detto l'altro giorno che sia Rudiger che Dzeko non avevano i 90 minuti, fa giocare Rudiger, non fa giocare Dzeko, non fa intervenire alla fine, magari i risultati non sono stati colpa di questo. Lo stesso errore magari l'ha fatto anche a Borisov, facendo giocare Scenio, come si chiama lui, al posto di De Santis, quando era appena rientrato da un infortunio. Szczęsny, che a proposito di portiere in difficoltà. Ecco, esatto. Quindi la considerazione è: perché non far continuare Castan? Anche perché il povero Manolas magari non riesce a ottimizzare quelli che possono essere i rapporti con il suo compagno di reparto. Non far continuare Castan? Sì, Castan o eventualmente De Rossi. Allora, per Castan è un discorso molto lungo e complesso, come lei sa meglio di me, è in fase di recupero agonistico, ora sta bene, però evidentemente non è ancora il giocatore in grado di stare in campo con continuità, mettiamola così. Sta camminando per tornare ad esserlo. Quanto a De Rossi, io sono convinto del fatto che, ma abbiamo avuto le dimostrazioni in queste partite, De Rossi e Florenzi vadano fatti giocare nei loro ruoli perché sono ancora fortissimi. Luigi Milano, buongiorno. Sì, ciao Carlo, grazie, ciao, per avermi richiamato. Anch'io volevo ricordare quella partita della Juventus con il Borussia del 74, solo che l'ascoltatore mi ha preceduto. È stata veramente una bella partita. Io avevo 12 anni, anche per me è stata la prima partita che ho visto ad uno stadio, da un paesino piccolo, la provincia di Milano, e la ricordo con molto piacere. Era una Juventus giovane che poi avrebbe aperto un ciclo. Sì. Veramente molto bello, l'emozione di quel bambino dello spot della Champions, sì, quale? Sì, ci posso capire perfettamente, ma tra l'altro era un Borussia molto forte, che aveva non solo Allan Simonsen, non René Simonsen, ma diversi giocatori che erano, sì, che erano forti. Mi ricordo Fuchs, mi ricordo Bonhoff, ma non vorrei fare troppi sforzi di memoria perché mi sbaglio. Veniva anche da quella partita famosa con l'Inter del 7-1, sì, certo, aveva un alone un po', sì, particolare, sì, era una, sì, cosa, sì, molto forte, quindi veramente un bel ricordo che anche l'ascoltatore di prima ricordiamo con molto piacere. Grazie Luigi. Grazie, ciao. Grazie mille. Mi scrivono Fuchs, Bonhoff, Stidiche, Wimmer, Heynckes, tutti campioni del mondo, Borussia del 75. Adesso però torniamo al presente e continuiamo a viaggiare, stavolta verso gli Stati Uniti, dove c'è mio amico Simone Sandri. Ciao Simone. Buongiorno Carlo. Come stai? Io molto bene, tu? Benissimo. Ascolta, tra poco ti chiedo ovviamente un exit poll della stagione NBA che è in asta di partenza, quali sono le ultime che succede, ma prima mi rinquadri il caso di Lamarcus Aldridge, che ha fatto il giro del mondo, è un giocatore molto noto, è un giocatore che ha fatto parte ad esempio del Dream Team alle Olimpiadi di Atene, era un giocatore determinante dei Lakers, è stato un giocatore di eccellente livello NBA, e poi adesso è caduto in una spirale che è comune comunque a diversi fragili campioni dello sport. Sì, hai detto bene, avrei qualcosa da che dire sul fatto che tu hai chiamato Dream Team la squadra che si è portata. Hai ragione. Che forse è stata una delle peggiori squadre. Hai ragione, chiedo ammenda, hai ragione perfettamente. Arrivo terza, una deludentissima medaglia di bronzo. Soprattutto con questo sconfitto, ma a parte quello, ormai penso che tutti sappiano cosa sia successo, tutti gli appassionati di basket sappiano cosa sia successo al Maradona Odom. È stato trovato privo di sensi in un portello a 70 miglia da Las Vegas, in condizioni quasi disperate, sembra che abbia fatto uso di cocaina e di stimolanti sessuali. È stato trasportato a un ospedale di Las Vegas e in un primo tempo le sue condizioni erano veramente gravi, respirava con un respiratore automatico, era in dialisi, sembrava veramente che anche se si fosse salvato si avrebbe avuto delle gravi malformazioni, e invece di colpo ha avuto da un certo punto di vista quasi un recupero quasi miracoloso, tanto che è riuscito, si è svegliato dal coma, ha parlato con figli, con l'ex moglie. E ieri è stato trasportato da Las Vegas in elicottero a Los Angeles, ma finita di Los Angeles addirittura sembra che abbia camminato ieri, per cui il suo recupero è veramente miracoloso. E devo dire di Maradona, a prescindere dal discorso tecnico, è uno dei giocatori più versatili degli ultimi tempi, ha fatto tantissimo con me, dei Lakers, dei Clippers, anche degli Heat. È un giocatore veramente amato un po' da tutti, perché gli sono arrivati a testare da tutta la NBA, è veramente un giocatore che è entrato un po' nel cuore, soprattutto come persona, di compagni di squadra, ma anche di avversari, per cui questa notizia è fatto questo recupero, come dico, quasi miracoloso, ha veramente fatto felice un po' tutta la NBA. Sì, speriamo che stavolta l'abbia capita di smetterla con queste stupidaggini, perché non è la prima volta, lo sappiamo bene. Cioè che avesse problemi seri con sostanze che uccidono, lo sapevamo già. Questo speriamo tutti che sia stato il colpo decisivo alla sua volontà, diciamo così. La stagione come la vedi, Simo? È una stagione ovviamente interessante, si apre con una chiarissima favorita. Ieri c'è scritto su NBA.com il sondaggio dei general manager, e la chiarissima favorita sembra che sia Cleveland, perché secondo il general manager sarà la squadra che trionferà, secondo la maggior parte dei general manager. Soprattutto sembra che veramente non abbia rivali adesso, perché praticamente tutti i general manager hanno votato Cleveland come la migliore squadra ad est. In effetti c'è ancora, secondo me anche quest'anno ci sarà questo squilibrio tra le due conference, dove da una parte c'è una conference incredibilmente complessa, con squadre di vertice molto forte, ma anche con squadre da ottavo, nono, decimo posto molto, molto solide. Dall'altra parte invece adesso c'è una squadra che è chiaramente soprattutto che è Cleveland, poi ci sono qualche outsider come Miami per esempio, come Chicago, come magari anche Atlanta, probabilmente anche Washington. E poi c'è una certa mediocrità dalla sesta, settima posizione adesso fino ad arrivare alla quattordicesima. Attualmente quasi tutti possono puntare a un posto nei play-off, ottava squadra, addirittura forse anche Nets e Knicks. A questo ci credo già di meno, mio caro Simone. Comunque, finiamo il riscaldamento e poi torneremo a parlarne il più possibile di NBA con te da New York. Grazie a Simone Sandri. Grazie. Grazie a te, Carlo. Ciao, Simo. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Pietro Lacorte in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Bellissimo spettacolo di sport. Bravi.